sono le onde forti, le onde medie, però il futuro deve essere la connessione di internet, cioè anche lo fanno su altri emittenti internazionali. Allora, io qua ho fatto un piccolo appunto del nostro viaggio, noi veniamo oggi insieme in Egitto, siamo venuti il 21 aprile e rimarremo fino a domani. qui il Cairo, radio diffusione della Repubblica Araba d'Egitto. Va in onda il notiziario. Iniziamo con il titolo di oggi, la principale notizia. È sventato un attacco terroristico che riguardava il Cairo e Alessandria. Riunione straordinaria domani della Lega Araba per esaminare la aggressione israeliana contro il Buon Santo di Gerusalemme. 9 persone morte, 22 ferite nell'esplosione di un camion bomba in Iraq. Si concludono le operazioni di voto per le elezioni generali in Pakistan. E ora ascoltiamo le notizie in dettaglio. La sicurezza egiziana ha scoperto una cellula terrorista con i contatti con Al Qaeda che si preparava ad attacchi kamikaze al Cairo e Alessandria, inclusa un'ambasciata straniera. L'ha detto il ministro dell'interno Mohamed Ibrahim, spiegando che sono stati arrestati 3 uomini egiziani e che nelle loro case sono stati ritrovati 10 chili di nitrato d'ammonio, un PC con dossier sulla preparazione di esplosivi e che ha comunicati pubblicati da una formazione terrorista madrilena. L'ex rais egiziano Mubarak è entrato nella gabbia degli imputati all'Accademia di Polizia del Cairo per la prima udienza del nuovo processo per l'uccisione di oltre 800 manifestanti durante la rivolta del 2011. Con lui i figli Gamal e Alaa, processati per corruzione. L'ex ministro dell'interno Habib El-Ali e 6 suoi collaboratori. Tensione in aula dove gli avvocati delle vittime hanno contestato la corte e hanno annunciato che ne richiederanno la ricognizione. Il nuovo processo è stato aggiornato all'8 giugno. Il primo ministro Sean Kandil si è incontrato stamane ad Istanbul con il suo omologo giordano Abdullah El-Sur. I colloqui hanno avuto per oggetto il rafforzamento delle relazioni Egitto-Giordano nei vari campi e l'esame degli argomenti di interesse comune. Kandil ha iniziato ieri la sua visita ad Istanbul per assistere alle riunioni della 22ª sessione del Consiglio del Governatorato della Banca Europea, della costruzione e dello sviluppo che si terranno con la partecipazione di numerosi campi di governo arabo. Il fondatore del movimento egiziano pro-rivoluzione 6 aprile, Ahmed Maher, è stato rilasciato oggi dopo essere stato arrestato ieri dai reparti del Cairo dell'Austria. Lo riferisce il portavoce della Procura Generale, che ne aveva chiesto la custodia cautelare per 4 giorni nell'ambito dell'inchiesta sulla manifestazione organizzata a marzo davanti all'abitazione del ministro dell'Interno, Mohamed Ibrahim, per chiedere il rilascio di alcuni componenti del movimento. Il Consiglio della Lega Araba terrà domani una riunione straordinaria per esaminare le misure da intraprendere dopo l'escalation dell'aggressione israeliana contro i luoghi di culto musulmani e cristiani nella città di Gerusalemme occupata. L'ambasciatore palestinese, rappresentante permanente della Palestina all'organizzazione panaraba Barata Persera, ha dichiarato che questa riunione passerà in rassegna le azioni israeliane commesse recentemente sulla spianata della moschea Al-Aqsa, nonché l'azione araba da intraprendere per affrontare queste violazioni. È poco probabile tenere la conferenza internazionale sulla Siria entro la fine di maggio, perché al momento ci sono troppe differenze sul formato da usare e i partecipanti. Lo ha detto il consigliere diplomatico presidenziale Yuri Ushakov, citato da Ria Novosti. Mosca ha aggiunto attende segnali dell'incontro di lunedì prossimo tra il presidente USA Obama e Cameron, dopo la vinta di ieri del premier britannico al presidente russo Vladimir Putin. 40 persone sono morte e altre 100 sono rimaste ferite in seguito alle esplosioni avvenute oggi vicino al municipio di Reyhanlı, città turca della provincia di Hatay, che si trova a pochi chilometri dal confine siriano. Il ministro dell'interno turco, Muhammed Güler, ha poi riferito che le due esplosioni sono state provocate da due autogrill. Due autobombe sono state fatte esplodere davanti all'ufficio del municipio e di un ufficio postale. L'oggi girato l'esplosione di un camion bomba guidato da una tentazione suicida contro la casa di un colonnello dei servizi di intelligence vicino al titolo. Ne dà notizia l'agenzia irachena Mina, sottolineando che tra le vittime vi sono alcuni bambini. L'esplosione ha distrutto la casa dell'ufficiale e un'altra casa vicina. Saeb Jalili, 47 anni, capo e negoziatore e rappresentante diretto della Guida Suprema dell'Iran, Ali Khamenei, sul dossier nucleare, si è candidato alle elezioni presidenziali iraniane del 14 giugno. Intanto si sta chiudendo la presentazione delle candidature. Finora, oltre a Osamiri, ha formalizzato la candidatura esponenti come il sindaco di Teheran, Mohammed Bakr Talusbash. Tra i circa 400 candidati si presenta anche il consorcio della Guida Suprema Ali Khamenei, Golan Ali Haddad Adel. Un terremoto di magnitudo 6.2 ha scosso il sud dell'Iran e ha causato 11 feriti ed ha raso al suolo numerose case in 5 villaggi. L'epicentro del sisma è stato localizzato in profondità di 36 km, non distante dalla città meridionale di Minam. Rossa ha riferito che le squadre di soccorso sono già in azione nell'area colpita. Il centro sismico iraniano ha registrato una serie di scosse di assestamento di magnitudo compresa tra 4.1 e 5.2. Oggi viene celebrata la giornata mondiale di preghiera delle chiese cristiane per la pace in Siria. È la prima volta che tutte le comunità cristiane presenti nel paese martoriato dalla guerra si mobilitano insieme pregando secondo quattro intenzioni: il ritorno della pace, la liberazione di tutti gli ostaggi, il sostegno ai bambini traumatizzati dalla guerra e gli aiuti umanitari per i profughi. La giornata, riferisce Radio Vaticana, è stata battezzata la preghiera del cuore sforzato e vi aderiscono chiese di diverse denominazioni. Le operazioni di voto per le elezioni generali in Pakistan si sono concluse alle 18, le 15 ore italiane. Lo ha confermato oggi ad Islamabad la Commissione Nazionale Elettorale, TCP. Soltanto in 7 collegi elettorali di Karachi e provincia, esse continueranno per altre 2 ore. Commentando l'andamento della giornata, il segretario della ACP, Ishtiaq Ahmed, ha comunicato che siamo stati capaci di organizzare elezioni libere e trasparenti. Una serie di attentati hanno causato almeno 15 morti, ha segnato oggi la prima parte delle elezioni generali in Pakistan, che si svolgono comunque in un clima positivo, con una maggiore affluenza alle urne rispetto al 2008. A metà giornata il portavoce della Commissione Elettorale Nazionale, Khurshid Alam, ha detto all'ANSA che la stima provvisoria del tasso di partecipazione è del 30% e che se questa tendenza rimanesse costante, a fine giornata dovrebbe toccare il 60%. È rientrato l'allarme a Washington, dove per precauzione era stato evacuata l'ala ovest della Casa Bianca, dopo che del fumo si era sprigionato da alcuni pannelli che non erano possibili. 5 automezzi dei vigili del fuoco hanno risposto alla chiamata, ma sono rimasti sul posto poco tempo. Il personale è stato fatto rientrare all'interno della Casa Bianca. Grazie cari ascoltatori, avete appena ascoltato il notiziario. Del prossimo anno fiscale. Un giro europeo di imprenditori egiziani Germania, Francia, Spagna, Italia per la promozione degli investimenti. Una conferenza mondiale sul progetto del gruppo dell'arte del canale di Suez. L'anno fiscale di 2013-2014 ha rivelato che il governo ha elaborato un piano finalizzato al miglioramento della prestazione degli enti economici nell'anno prossimo, nonché a portare il loro surplus alla cifra di 62,3 miliardi di euro egiziano contro i 47,5 miliardi registrati in quest'anno, con una crescita di circa il 31%. Tale piano si basa su un certo numero di assi in particolare, la risoluzione delle controversie finanziarie fra gli enti economici e la Banca dell'Investimento Nazionale, l'adozione di misure finalizzate all'aumento dell'efficienza finanziaria ed economica di tali enti, specie quelli del petrolio, dell'elettricità, delle ferrovie, dell'unione, della radio e della televisione. Il sopraindicato progetto di bilancio ha previsto una crescita del 29% degli introiti fiscali pagati dagli enti economici, che raggiungeranno la cifra di 78 miliardi di euro egiziani invece dei 60 miliardi registrati nell'anno fiscale in corso. Una delegazione dell'Associazione degli investitori della nuova città industriale di Bade si è incontrata con due responsabili del Ministero dell'Industria e del Commercio Estero al fine di esaminare le urgenti esigenze degli investitori siriani che desiderano trasferire le loro fabbriche in Egitto. Nel corso di tale riunione è stata discussa la cooperazione con il programma del partenariato euro-egiziano attualmente in corso fra il Ministero e numerose aziende francesi, italiane e spagnole che desiderano trasferire le loro fabbriche in Egitto nel quadro della stipula di accordi di partenariato con imprenditori egiziani. Riguardo una delegazione di alto livello del Ministero dell'Industria e del Commercio Estero, accompagnata da un gruppo di imprenditori egiziani di tutti i campi, effettuerà un giro europeo che comprende l'Italia, Francia e Spagna per passare in rassegna le disponibili opportunità di investimento in Egitto al corto e medio termine. L'Associazione del Business e degli Investimenti Egiziani organizzerà una conferenza mondiale sul progetto dello sviluppo dell'asse del canale di Suez, passando alla segna delle disponibili opportunità di investimento secondo il piano generale elaborato dal Ministero dell'Edilizia. A tale conferenza faranno parte 500 grandi imprenditori, tra stranieri ed arabi, interessati sulle opportunità di investimento del progetto dell'asse del canale di Suez. Cari ascoltatori, siamo arrivati così alla conclusione del vostro programma. Vi auguriamo un buon proseguimento di serata e alla prossima settimana. Da Radio Cairo vi abbiamo presentato il dossier economico, un programma curato da Yasser Assi e presentato per voi da Antonello Bocchini. Amici di Radio Cairo, buonasera. Leonardo di San Piero da Vinci, Vinci, 15 aprile 1452, Amboise, 2 maggio 1519, è stato un pittore, ingegnere e scienziato italiano. Uomo di genio e talento universale del Rinascimento, incarnò in pieno lo spirito della sua epoca, portandolo alle maggiori forme di espressione nel più disparato campo dell'arte e della conoscenza. Si occupò di architettura e scultura, di disegnatore, tratatista, scenografo, anatomista, musicista e in generale progettista e inventore. È considerato uno dei più grandi geni dell'umanità. Indipendenti di Leonardo vengono oggi datati tra il 1469 e i primi anni 70, ancora prima del battesimo. In questi lavori, su cui il dibattito critico è stato molto acceso, l'artista mostra una forte adesione al linguaggio comune degli allievi di Bellocchio, complicando gli studi attribuiti dalla piena antigrafia della piccola Madama Dreyfus, in 1849 circa, National Gallery of Art, Washington, e una confezione recente della critica che in passato aveva oscillato anche sui nomi di Bellocchio e Lorenzo di Trevi. Stretta infatti la vicinanza stilistica con la successiva Madonna del Garofano, 1473 circa, alto Pinacoteca Monaco, con internati dedicati quasi trasparenti, la gestualità familiare tra madre e figlio, l'ambientazione sono sfende scure in cui si aprono alla fiamminga due finestre sul luminoso paesaggio. Nel gennaio 1474, 1478, non si conoscono opere memorabili. Questo silenzio è particolarmente strano se si considera come negli anni immediatamente precedenti la carriera di Leonardo stesse definitivamente decollando con alle spalle un padre influente e facoltoso, veramente un uomo fino al 1480, che sicuramente poteva aiutarlo in appropriate condizioni. Si è ipotizzato quindi che il poco più ventenne Leonardo fosse ancora incerto sul proprio futuro, avvicinandosi al mondo della scienza con la frequentazione dell'anziano geografo e astronomo Paolo Dal Pozzo Toscanelli. Probabilmente ebbe modo di approfondire l'anatomia secondo la dissezione dei cadaveri in locale mortuario degli ospedali, ma dovete studiare anche la fisica e la meccanica tramite esperimenti diretti. In questi anni risale probabilmente anche l'avvicinamento all'evento magnifico e alla sua cerchia della quale faceva parte il suo maestro Bellocchio. Con i fogli dei codici ufficiali mostrano quindi nelle consulenze militari ingegneristiche di questo probabilmente l'evento. Il 29 dicembre 1479 Leonardo ne trasse il cadavere impiccato di uno dei responsabili della congiura dei Tocchi, Bernardo di Bambino Baroncelli, l'assassino di Giuliano de' Medici, confermando un legame con la casa Medici. Si tratta di un disegno di impiccato conservato al Museo Romeo di Bayonne. La nonna Gabbiano inoltre ricorda la sua frequentazione verso il 1480 nel giardino di San Marco, una sorta di museo all'aperto in cui era esposta la collezione a statue antiche dei Medici, l'anziano scultore Bertoldo di Giovanni, una scuola d'arte, a cui partecipò anche quasi 10 anni dopo il giovane Michelangelo Buonarroti. La versione recita: Spesso Leonardo, con l'amico Lorenzo, dando le provvigioni per sé, si faceva lavorare in giardino sulla piazza di San Marco a Firenze. Questo è il fenomeno che ha fatto Lorenzo Ponte gli anni, tanto Leonardo dovuto esibirvi di lavoro, di scultura e restauro. La Radio Cairo vediamo presentato quattro chiacchiere. Presentato per voi da Antonello De degli artisti classici di altissimo livello che godono di grande stima. Questa missione russa ha per obiettivo usare punti sui beni del paese delle piramidi, ignorati da un gran numero di cittadini russi, soprattutto al settore nord, che comprende l'oasi di Shiro, situata nel Sahara occidentale, e per accendere le mine del celebre tempio di Amon-Ra. I risultati del lavoro di questa missione saranno inaugurati dalla Biblioteca di Alessandria all'inizio del mese di novembre, con un'esposizione intitolata Attraverso strade sconosciute del Nord Egitto. Poi l'esposizione si farà in Russia per i diamanti della storia dell'Egitto a Mosca, poi a San Pietroburgo e in altre città della Russia. Sono iniziati attualmente al Palazzo dell'Opera Egiziana con l'accoglienza delle efficienze della 35ª sessione dell'esposizione generale, che verrà inaugurata il 26 maggio sotto il titolo Il dialogo tra la realtà e il posto. Per armonizzarsi con il più grande evento artistico e il più grande colloquio degli artisti grafici egiziani, di cui la prima fase ha preso il suo lancio con un atelier tecnico e un programma culturale, accompagnati per la prima volta dalle efficienze dell'esposizione generale, in una nuova tradizione forte e importante, l'efficienza di questo celebre evento artistico il più celebre sulla scena locale. L'Ateneo del disegno si tiene sotto il titolo di Rosmento Umano dall'imitazione alla sperimentazione e dura 3 settimane al centro Alvesura delle arti e comprende altri atelier di cui quello digitale delle arti intitolato digitale, quello della calligrafia araba sotto il titolo di bellezze di scultura in lettere arabe, quello della stampa e i suoi effetti sulla tela artistica e quello degli sketch della personalità egiziana. Il programma include tra l'altro un insieme di colloqui artistici importanti e specializzati, tra cui uno intitolato Influenza dell'arte antico egizia sulla scultura egiziana moderna e l'altro sul livello di influenza dell'arte europea ed occidentale attraverso la calligrafia araba. Il programma termina con un colloquio aperto consacrato a tutti i partecipanti agli atelier artistici. Il ministro della cultura inaugura il primo simposio del Cairo per la scultura di Saravecchio, tenuto al giardino del museo di Mahmoud Mokhtar. Il lancio della prima sessione di questo evento si tiene per la prima volta in Egitto, come anche in tutto il Medio Oriente, e coincide con la commemorazione della nascita del primo scultore egiziano Mahmoud Mokhtar, 10 maggio 1891, e proprio nel suo museo verrà celebrato un grande artista defunto, Salah Abdel Karim, il primo scultore che impiegò il Saravecchio nelle sue superbe ed eterne opere scolpite. Da Radio Cairo vi abbiamo presentato Panorama Artistico, la natura di Hebra Su, presentato per voi da Antonio Bocchini. questo non è il buon appunto. Sono appena della penisola del Simon, sono usciti oggi uno dei luoghi più apprezzati al mondo da chi cerca una vacanza all'insegna del mare strepitoso, del sole di 365 giorni all'anno e dell'incredibile numero di offerte alberghiere con possibilità di scegliere tra hotel super lussuosi e strutture alberghiere di buon livello ed altre due accessibili. Forse uno sviluppo troppo rapido ed esplosivo, forse una meta ormai inflazionata, nonostante qualsiasi pregiudizio, ancora in grado di sorprendere il visitatore con la sua luminosa bellezza. Carissimo Lusso, informazioni dettagliate su Shanna dopo il prossimo spazio. Fino a qualche decennio fa sono sotto un altro tutto sparito in una lancia di Jessica che si affacciava sulle rive del Mar Rosso. Definitivamente passato in mano egiziana nel 1982, dopo un'occupazione israeliana di 15 anni, ha subito visto un rapido sviluppo in questi ultimi anni, diventando popolarissimo tra i vacanzieri europei, israeliani e di altri posti del mondo. I uomini che conducono a Sharm sono numerosissimi. Di fatto, Sharm Airport è il secondo scalo della nazione dopo l'aeroporto da Cairo e non si vede a Champagne provengono dall'Italia. Questo osservatorio è situato all'estremità della penisola del Sinai, in Golfo di Aqaba, prodotta da maestose montagne che in arrivo ad ottomani giungono molto caldo. In questo nuovo schivo le temperature raggiungono livelli elevatissimi, in generale il caldo è fresco, e quindi più sopportabile. La valle d'Azzurra, il canale di Suez e il Golfo di Aqaba, per esempio, si concentrano le massime temperature su 27 gradi, e 12 gradi. In media le temperature oscillano tra i 35 gradi e i 45 gradi in estate e i 20 gradi e i 25 gradi in inverno. I mesi più freddi e variabili sono dicembre e gennaio, anche se attrae il turismo praticamente in ogni stagione, sono in cerca ordinaria delle condizioni climatiche come il periodo di marzo, maggio e settembre e giugno. Questa è diventata una meta importante per la pratica della subacquea con sei provenienti da tutto il mondo. Situata nel Marocco, offrisce mare subacquee e grande bellezza anche grazie alla splendida barriera coralliana e una temperatura dell'acqua piacevole per le immersioni. La immersione subacquea è la sua crisi a One Search e Tama Search, il primo studio Il programma per altri presentati in un'altra. Adesso l'aeroporto che non iniziano alcuni, ma anche Lapcom, ma solo come stizio, è un marchio europeo. L'Egitto sta modificando per un turismo in sua destinazione, ma certamente la testica è testata su più fronti, ma che si focalizza in primo luogo sulle garanzie di sicurezza del paese. Il primo intento che l'Europa si prende è un conflitto di comporto anonimo. Il programma di incentivi ai startup che sono creativi sarà solo per un altro anno, ha detto il ministro del turismo Michel Gazzon, al congresso Fiat scorso a Luxor, che con incentivi extra la operazione che non funziona nei giorni ripresentano il numero di passeggeri. Che prevedono zero sconto aerei che prendono compagnie che vogliono essere luce e assumere. Dopo prima impegno aggiuntivo, uno per andare in capo al CEO che si prendono il rischio di impresa, ma riassunto il rischio, e uno per premiare il vettore. Ma il progetto di rilancio anche le operazioni per tranquillizzare la opinione pubblica sulla situazione reale nei luoghi turistici. Dovranno installare dei webcam trasversali che mostrano direttamente in live streaming a Roma, Milano e altre città europee, ha spiegato Gazzon, che qui non ci sono problemi sul piano della sicurezza. Non c'è intanto il progetto per treni innovati nazionali a marchio di certificazione. Prima poi, in collaborazione con il governo tedesco. Sono 46, come ha precisato lo stesso ministro di Zoom, le strutture già certificate, avanti in Siemens e Mar Rosso. Ma è proprio sotto il profilo alberghiere che la situazione sta arrivando in Egitto, sta attraversando un momento di stasi, specialmente nella destinazione interna. I prezzi in questo momento, ha detto Gazzon, sono bassi e astronomici. Il disegno che i turisti italiani tornano più numerosi per sostenere il suo settore turistico, lo ha detto il ministro del turismo di Zizzo, Michel Gazzon, alla conferenza organizzata alla Sena in Fiat. I turisti italiani a Egitto nel 2012 sono stati 1.200.000 e le presenze sono notevolmente scese, nel frattempo, ha segnalato Gazzon, ha spiegato i numeri turisti ad essere ancora registrati. La rivoluzione del 18 gennaio 2011, la scuola all'offerta turistica differenziata, rende possibile una piccola impresa del settore, ha detto il ministro, citando anche gli spazi di carattere sportivo.